strade e motori di Massimo De Donato. Salve a tutti da Massimo De Donato, nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità. L'emergenza coronavirus ferma FCA da mercoledì a oggi. Le fabbriche tipo Migliano, Melfi e Cassino insieme alla Sevel di Val di Sangro hanno infatti subito una chiusura temporanea per interventi straordinari di messa in sicurezza. Il processo di igienizzazione delle strutture avviato in questi giorni proseguirà anche nelle prossime settimane, periodo durante il quale gli stabilimenti comunque riapriranno ma con produzioni ridimensionate per permettere un minore addensamento del personale nelle principali aree di lavoro. Sono diverse in questo periodo le misure adottate da FCA per contrastare la diffusione del virus, tra cui la facilitazione del lavoro a distanza per gli impiegati e l'applicazione di rigidi controlli nelle mense agli accessi di tutti i siti del gruppo. Ne parleremo tra l'altro nella seconda parte della trasmissione di oggi proprio con il nostro ospite. E continuiamo invece con il nostro notiziario. L'emergenza coronavirus ha imposto il divieto di eventi in tutta Italia e anche il Gran Premio di Formula E ha dovuto adeguarsi. La tappa romana del GP dell'elettrico, prevista per il prossimo aprile, è stata infatti annullata. Gli organizzatori hanno cercato di fissare un'altra data, ma invano, visto che il calendario delle gare mondiali è ormai completamente saturo. L'E-Prix a Roma è quindi, almeno per ora, rimandato al 2021. Il 2019 delle attività di officina si è chiuso col segno positivo, ce l'ha raccontato l'osservatorio Autopromotech con il barometro sul sentiment degli autoriparatori. L'assistenza auto ha fatto registrare soprattutto nel mese di dicembre dati particolarmente positivi, sia per quanto riguarda il saldo delle autofficine, sia per quanto riguarda il livello dei prezzi, mantenuto costantemente basso per tutto l'anno. Il barometro sul settore ha anche tracciato una previsione per il 2020, una facile previsione, bisogna dire, visto le condizioni e visto che si prevede una drastica inversione di tendenza a partire dal mese di marzo. E ritorniamo a parlare ovviamente dell'emergenza Covid-19 e soprattutto del suo impatto sul mondo automotive. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, l'associazione che raggruppa appunto tutti i costruttori esteri in Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Allora, un'emergenza che ovviamente tocca l'intero settore produttivo italiano, colpisce anche il settore dell'automotive sia in Italia sia nel resto d'Europa. Abbiamo ascoltato poco fa che alcuni stabilimenti di FCA, per esempio, sono stati chiusi fino ad oggi per esigenze organizzative, e questa volta e non per mancanza di rifornimenti come è stato in passato per altre industrie europee. Una situazione drammatica per il mondo dell'auto che, tra l'altro, già stava vivendo prima di questa emergenza una situazione particolarmente difficile. Tutti i motivi che hanno spinto qualche giorno fa un RAE a chiedere anche un incontro con i vertici del governo, con il ministro Patuanelli, una situazione che però nelle ultime ore è esplosa drammaticamente, addirittura con il blocco totale della domanda. Ecco, quali potrebbero essere le iniziative in questo momento da mettere in campo? In questo momento intanto dobbiamo ricordarci tutti quanti che l'emergenza è innanzitutto sanitaria, questo è fondamentale non perderlo di vista, perché siamo di fronte veramente a un rischio enorme per il paese sotto il profilo innanzitutto umano e sociale. Dopodiché ovviamente l'impatto economico non può essere trascurato. Il nostro appello è duplice: da un lato mettere immediatamente in campo le misure emergenziali che sono di nuovo innanzitutto di natura sociale, ed è un po' quello che il governo, con provvedimenti diversi che si susseguono, sta cercando di mettere in campo. Quindi sostegno innanzitutto ai lavoratori e alle famiglie, quindi sostegno al reddito, sostegno misure, diciamo, di cassa integrazione, queste forme assolutamente emergenziali. È ovvio che in questo contesto pensare di sostenere la domanda per giunta di un bene durevole come l'automobile sarebbe assolutamente insensato. Però, dicevo, la richiesta è duplice, perché bisogna già oggi, senza aspettare che l'emergenza sia terminata o comunque sia nella sua fase calante, per iniziare a pensare al dopo. Il dopo sarà una vera e propria ricostruzione post bellica, quindi dobbiamo riuscire a ritagliarci degli spazi o un binario parallelo rispetto alla gestione dell'emergenza per pensare a che cosa dovremo fare. Certo. Noi stessi stiamo riflettendo su le cose che avrebbero più possibilità di incidere realmente su un mercato che sarà veramente provato in maniera molto molto dura. Quindi, tra le altre cose, un mercato che risentiva già di una profonda crisi, che è arrivato a questa emergenza già fortemente provato, perché se guardiamo i dati di gennaio, ad esempio, sono dati sicuramente di un mercato in grande difficoltà. Quindi si tratta di ricominciare con una previsione pre-virus che era comunque una previsione in rosso. Assolutamente sì. Il mercato si è ammalato molto prima del virus, e non per il virus ovviamente. Ha aperto l'anno con un meno 6, febbraio ha proseguito con quasi un meno 9. Ovviamente insomma, i primi a risentire del problema del virus sono stati i settori legati al turismo, quindi tipicamente il breve termine, e già i primissimi giorni di marzo hanno evidenziato il tracollo, e adesso siamo di fronte al fermo totale. Quindi noi stessi stiamo ripensando al pacchetto di proposte che avevamo portato avanti in tutte le sedi istituzionali fino alla settimana scorsa, perché quello è il pacchetto per un malato, non è il pacchetto per un moribondo. Quindi bisognerà sicuramente intanto aumentare gli stanziamenti in maniera molto molto importante, e su questo fronte quantomeno abbiamo la, non voglio parlare di serenità, ma insomma la consapevolezza che dal punto di vista dei vincoli di bilancio sulle finanze pubbliche avremo sicuramente un contesto più morbido, certo, sì. Come si è visto anche in queste ultime ore. Esattamente, quindi questo dal punto di vista, diciamo, delle condizioni di contesto, ma che cosa può realmente incidere per rianimare un cadavere? Questa è una riflessione che ancora è in corso. Sicuramente gli incentivi alla domanda saranno fondamentali, ma forse bisogna un po' rivedere gli importi unitari, bisogna rivedere il perimetro, bisogna rivedere le logiche che devono sostenere questo tipo, certo, di misure. Ecco, l'UNRAI rappresenta, lo dicevamo prima, tutte le case costruttrici estere, europee, internazionali. Tra un po', tra l'altro, nella seconda parte della puntata di oggi parleremo invece con FCA, con il costruttore italiano, che ha lanciato, tra l'altro, in questo momento davvero difficile, anche un nuovo modello. Ma ritorniamo alle case estere. Come si stanno riorganizzando in queste settimane così difficili in Italia? C'è il tema della vendita, che non è sicuramente un'attività essenziale, c'è il tema dell'assistenza, che invece può esserlo anche come attività di sostegno a quelli che sono i settori essenziali. Quindi siamo in una fase ancora di orientamento. Sicuramente l'attività sarà ridotta proprio al minimo indispensabile, su questo non c'è dubbio. Noi ancora poche settimane fa pensavamo all'impatto del virus come un impatto sulle catene del valore globali, che spesso partono dalla Cina, soprattutto per tutto il mondo dell'elettrico, con un conseguente impatto anche sul mix di alimentazioni nel mercato, sull'emissione ponderata di CO2 e le conseguenti sanzioni, che non ci dimentichiamo in teoria quest'anno, dico in teoria perché secondo me all'indomani del virus sarà un po' diverso, ma insomma da quest'anno siamo soggetti alle pesantissime sanzioni per lo sforamento degli obiettivi di CO2, e non vorremmo, diciamo, evitare le sanzioni semplicemente perché non abbiamo venduto nulla, ecco. Certo, ovviamente il rischio è anche questo. Bene, salutiamo e ringraziamo Andrea Cardinali, direttore generale di UNRAE, che è stato con noi in questa prima parte di Strade e Motori. Ci risentiamo per la seconda parte tra pochi minuti. Aiutiamo Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. Il Policlinico di Milano ha bisogno di te, e per noi è la notizia più importante di oggi. Il Policlinico di Milano, con i suoi medici, anestesisti, infermieri, tecnici e biologi, è in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Strade e motori. Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, e come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento ci occupiamo in questo spazio di FCA e parliamo in particolare con Luca Napolitano, responsabile del brand Fiat a Bartimea. Buonasera, grazie per essere qui con noi stasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, come avete ascoltato anche dalla prima parte della nostra trasmissione, FCA ha preso una decisione importante che è quella di riorganizzare i propri stabilimenti in Italia, gran parte della propria produzione italiana, proprio per far fronte a questa emergenza che ormai ovviamente sta condizionando ed è al centro anche della nostra puntata della trasmissione dedicata all'automotive. Come è andata? FCA è chiaramente impegnata fin dall'inizio nel lanciare tutte le azioni che abbiamo ritenuto necessarie per minimizzare il rischio di contagio, direi anche con ottima velocità sia di decisione che di esecuzione. Si tratta di un pacchetto di azioni che servono proprio per massimizzare la sicurezza di tutti noi dipendenti. Si tratta in particolare della sospensione temporanea degli stabilimenti, una sospensione temporanea che serve appunto per sanificare ripetutamente gli stabilimenti, garantire nuovi processi che permettano una minore densità e quindi maggiori spazi tra i lavoratori, ovviamente per poter fornire tutti gli strumenti necessari per proteggere le persone. Certo, FCA è stata anche protagonista nelle scorse settimane di una presentazione importante, doveva essere presentata a Ginevra, ma come sanno bene tutti i nostri radioascoltatori, quello di Ginevra è diventato in realtà un salone virtuale, e voi avete pensato bene di presentare a Milano la nuova 500 elettrica, un momento importante proprio perché vuole rappresentare proprio il raggiungimento di un obiettivo che era quello della produzione dell'auto full electric. Cosa ci può raccontare di questa 500? Ma la 500 è importante già oggi. Pensate che dell'attuale 500 ne abbiamo vendute più di 6 milioni di unità, sono più di 2 milioni quelle vendute con la 500 rinnovata del 2007. 80% di questi volumi vanno fuori dall'Italia per testimoniare l'affetto che viene da tutta Europa per questa vettura, e la vettura FCA più venduta in Europa. La nuova 500 è molto importante per Fiat. Non abbiamo pensato a costruire una vettura per i prossimi 2-3 anni, abbiamo pensato di costruire una vettura che guardi ai prossimi 10 anni, alla prossima decade, alla Fiat del futuro. Questo è stato lo spirito della presentazione alla stampa che abbiamo appena fatto a Milano. Abbiamo presentato la Launch Edition, si chiama la prima, ed è una vettura esclusiva, si tratta di solo 500 unità numerate per ogni mercato. Se ovviamente ne volete una dovete opzionarla e chiedete di farlo velocemente perché le vetture stanno davvero finendo rapidamente. Certo, entriamo un po' nel dettaglio di questa automobile, quali sono le sue caratteristiche, quali le autonomie, i tempi di ricarica, insomma cosa deve sapere un consumatore che si vuole avvicinare a questo modello? Allora, la nuova 500 è davvero tutta nuova, quindi non c'è nessun carryover dall'attuale 500, non c'è carryover dalla 500 elettrica americana. È una vettura più grande, più lunga, più larga, quindi è più spaziosa all'interno. È una vettura elettrica, solo elettrica, ma è costruita per essere venduta davvero a tutti, quindi abbiamo voluto sulla vettura tutto quello che è necessario per un utilizzo giornaliero di una vettura elettrica. Sono 320 km di autonomia, 400 in ambiente urbano. Abbiamo dotato la vettura di fast charge che permette di ricaricare la percorrenza media giornaliera in 5 minuti. 5 minuti è il tempo necessario per fare rifornimento in modo tradizionale. La vettura avrà wall box per chi vuole ricaricare in casa. Abbiamo inserito una modalità che abbiamo chiamato Sherpa, perché come una vera guida himalayana ti riporta in sicurezza la destinazione intervenendo sui consumi e sui servizi. Una vettura con livello 2 di guida autonoma, nuovo infotainment con uno schermo di oltre 10 pollici, è molto divertente da guidare, da 0 a 50 in 3 secondi, e poi, visto che si tratta di una 500, anche un po' di emozionalità, quindi una vettura anche cabrio. Certo, veniamo ai prezzi. Quanto costa rispetto anche ad una 500 tradizionale, chiamiamola così? Non abbiamo ancora annunciato né i prezzi né la gamma di questa vettura, che sarà presentata il 4 luglio, il giorno del compleanno della 500. Abbiamo presentato la edizione, la prima, come dicevo prima. Si tratta Certo, di una edizione limitata, quindi chiaro. Sì, una vettura davvero esclusiva che abbiamo presentato a 37.900 euro, ma davvero completa di tutto per una edizione limitata e numerata. Quindi non sarà quello il prezzo finale della versione base, tra virgolette, della vettura che sarà presentata il 4 luglio. In realtà c'è stata anche un'altra presentazione qualche settimana prima, perché sono arrivate sul mercato italiano anche le versioni ibride di 500 e di Panda. Come sta andando invece quel segmento, quello delle ibride? Ma abbiamo deciso di entrare nel mercato delle vetture elettrificate proprio ora perché finalmente si tratta di un mercato maturo. Pensate che nel 2019 questo mercato, quello delle elettriche più le ibride, ha superato 1 milione di unità, che è un volume che dimostra una chiara tendenza della domanda dei clienti. Entriamo nel segmento delle city car con 500 e Panda perché credo sia il modo migliore per iniziare. In fondo questo è il segmento che Fiat domina sia in Italia che all'estero storicamente. Entriamo sia con la 500 che con la Panda, perché sono due vetture complementari, quindi una più versatile e spaziosa, l'altra più attenta allo stile, perché vogliamo dare un'offerta completa ai nostri clienti. E in sintesi, con solo 500 euro di delta prezzo in più verso la stessa motorizzazione benzina, si può accedere a tutti i vantaggi dell'ibrido, quindi minor consumo, minori emissioni, accesso ai centri cittadini gratis o a tariffa ridotta, in qualche città anche incentivazioni fiscali. Certo, ecco, tutto questo succedeva prima dell'esplosione del Covid-19 e quindi prima del blocco assoluto anche delle vendite sostanzialmente, perché con il blocco delle attività in Italia c'è stato anche un blocco delle vendite. Quale sarà secondo lei l'impatto una volta che tutto sarà tornato alla normalità, ed è qualcosa che ovviamente ci auguriamo possa accadere il prima possibile? Dicevo, quale sarà l'impatto di tutto questo sul mercato dell'auto ed in particolare sul mercato italiano dell'auto? Ma fino a febbraio direi che non si è visto nessun impatto sull'industria. In fondo quello che è stato targato in Italia anche all'estero è frutto del portafoglio che ogni marca aveva. È chiaro che i primi giorni di marzo dimostrano una flessione importante, noi dobbiamo seguire in maniera molto attenta. È chiaro che dobbiamo farci trovare alla fine di questo periodo, che tutti speriamo arrivi il più presto possibile, pronti, preparati per riprogrammare i nostri servizi per i nostri clienti ancora meglio di oggi. Certo. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Luca Napolitano, responsabile IMEA del brand Fiat e Abarth. L'appuntamento con Strade e Motori torna, come al solito, sabato intorno alle 22. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.